Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. È da irresponsabili dire sì a questa candidatura. Questa, care ascoltatrici, cari ascoltatori, è dunque la decisione della sindaca Raggi, comunicata oggi, come avete sentito, in conferenza stampa. Ho sentito proprio un brevissimo passaggio, poi sentiremo il resto, sulla candidatura appunto di Roma alle Olimpiadi del 2024. C'è chi ha applaudito, come avete sentito, però ci sono state anche tante reazioni dal mondo politico, tante reazioni contrarie, e contrariato molto anche il presidente del CONI, Giovanni Malagò, che tra l'altro oggi doveva avere un vertice con la sindaca Raggi. Pare che la sindaca Raggi, arrivata in ritardo, ha disertato, insomma non si sono incontrati. Lui molto irritato di questo, e poi naturalmente anche del fatto che la sindaca ha preso una decisione diversa da quella che Malagò avrebbe voluto. Ne parleremo ampiamente, questo è un tema anche su cui potete scrivere i vostri commenti sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, e anche al numero per WhatsApp, SMS, che è 349-238-6666. Ma fra i vari temi c'è la saga infinita del Fertility Day. Sapete che domani è il Fertility Day, doveva essere celebrato, sarà celebrato. C'era già stata la campagna precedente, che era stata oggetto di tante critiche, polemiche anche sui social network. Bene, oggi erano stati presentati gli opuscoli che dovevano essere pronti per domani, ma sono stati tacciati di razzismo perché parlano di buone e cattive abitudini per la fertilità. Nelle buone abitudini, è diviso in due questa immagine dell'opuscolo, nella parte buona ci sono dei bianchi, biondi, americani, eccetera, e nella parte cattiva di chi prende coca, chi fuma marijuana, eccetera, ci sono dei neri. E quindi cosa è successo? Grandi polemiche anche oggi. Poco fa è stato annunciato, il ministero ha ritirato questo opuscolo e è stata anche aperta un'inchiesta. Moltissimi temi, come sempre vi riassumo prima di tutto la giornata e poi dopo piano piano scenderemo nel cuore degli argomenti. Olimpiadi 2024, la Raggi dice no alla candidatura di Roma, non è un sogno ma un incubo, il presidente del CONI Malagò dice è un danno erariale di cui la giunta dovrà rispondere. Fertility Day, nuova bufera sul ministero per gli opuscoli definiti razzisti. In serata sono stati ritirati ed è stata aperta un'indagine. Italicum passa la mozione del PD, ma 42 non la votano. Convergenza tra Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana. Politica industriale, Renzi a Milano presenta il piano del governo per il futuro dell'industria. Attenzione anche alla moda. Tassi di interesse la Fed li lascia invariati. Il costo del denaro resta fermo fra lo 0,25 e lo 0,50%. Stati Uniti, la polizia uccide un altro nero, violenze a Charlotte, scontro a distanza Trump-Hillary sulle tensioni razziali. Immigrazione, naufraga un barcone al largo dell'Egitto, si teme una strage, almeno 29 i morti salvati in 150, ma a bordo c'erano 300-600 persone secondo le testimonianze. Utero in affitto per il Consiglio d'Europa dovrebbe essere proibito perché è una violazione della dignità umana. Il femminicidio di Ravenna, convalidato l'arresto per Matteo Cagnoni, accusato di omicidio aggravato, occultamento di cadavere e violenza sessuale. L'omicidio di Luca Varani a Roma, secondo l'autopsia il ragazzo fu massacrato con 100 colpi, ucciso a coltellate e martellate. Il caso della bimba Fortuna, Raimondo Caputo rinviato a giudizio, anche la convivente a processo, non ha impedito abusi sulla figlia. Gli acquisti di Apple, secondo il Financial Times, l'azienda di Cupertino sarebbe in trattative per comprarsi la McLaren. E per il calcio, in campo la Serie A, Bologna-Sampdoria intanto è finita 0-2. Anzi 2-0, scusate. E poi partiamo però dal no definitivo alla candidatura di Roma ai Giochi Olimpici del 2024, ufficializzato oggi, come avete sentito, in conferenza stampa dalla sindaca Raggi. Una giornata piuttosto tesa, come vi avevo anticipato, dove ci sarebbe dovuto essere questo vertice tra la sindaca, il comitato promotore delle Olimpiadi e il CONI, ma dopo 40 minuti di attesa la delegazione e il presidente del CONI Malagò, molto contrariato, se ne sono andati. Sono quindi andate in scena due conferenze stampa separate. Sentiamo allora un passaggio di quella della sindaca Raggi. Non vogliamo che lo sport sia utilizzato come pretesto per ulteriori colate di cemento sulla città. Questo non lo permetteremo. Vengono fatte tante promesse in occasione di ogni Olimpiade. Ci ricordiamo bene come sono andati i mondiali di nuoto, no? Alla fine siamo pieni di impianti abbandonati, inutilizzabili, che rimangono lì come scheletri e gusci vuoti. Non è questo che debbono essere le Olimpiadi, e per noi non saranno questo. No alle Olimpiadi del mattone, assolutamente no. Poi sentiamo adesso un passaggio invece della conferenza stampa del presidente del CONI Giovanni Malagò. Noi siamo candidati perché sono cambiate le regole del gioco. Onestamente mi è dispiaciuto, perché ho sentito la conferenza stampa della sindaca che non lo si è ricordato. Ma è tutto qui, ma questo è il punto centrale della questione. Se non ci fosse stata Agenda 2020, l'avvento di Thomas Bach alla presidenza del CIO né Roma, ma in qualsiasi altra città d'Italia, io penso né oggi, né a breve, né a medio termine, poteva aspirare a candidarsi. Poi questo naturalmente sarà il primo tema di approfondimento dopo la viabilità, e tra poco, dopo le 21.15. Mentre tutto questo accadeva a Roma, nelle stesse ore a Milano Matteo Renzi e il ministro Carlo Calenda presentavano il piano del governo per la cosiddetta industria 4.0, cioè la rivoluzione industriale basata su robotica, internet, degli oggetti e dell'intelligenza artificiale, un mix di incentivi fiscali e altri stimoli per investimenti privati. Una grande occasione che deve cavalcare l'industria italiana, così il presidente di Confindustria Boccia sul piano del governo Industria 4.0, ottimista sul fatto che il nostro paese possa farcela nonostante il ritardo di alcune imprese. Abbiamo una fascia avanzata di imprese che è molto avanti, una fascia che è una fase intermedia e una fascia molto indietro. Dobbiamo accompagnare quelle un po' più indietro a fare questo grande salto di qualità, che è culturale prima ancora che tecnologico. Ma intanto, secondo l'indagine di Federmeccanica, la quarta rivoluzione industriale stenta ancora a decollare. Il processo è partito, ma è solo all'inizio. L'Italia, insomma, arranca. Secondo il rapporto, il 64% delle imprese dichiara di aver adottato almeno una delle cosiddette tecnologie abilitanti, mentre il 36% dichiara di non averne adottata alcuna. Così il presidente di Federmeccanica Storchi. Sono già 10 anni che, per esempio, i tedeschi stanno lavorandoci, ma anche molte altre nazioni del mondo si stanno occupando della digitalizzazione dei sistemi e dell'industria 4.0. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E adesso una raccomandazione che arriva dal Consiglio d'Europa: l'utero in affitto o maternità surrogata dovrebbe essere proibita perché è una violazione della dignità umana, comporta il rischio di ridurre i bambini a una merce e può portare allo sfruttamento delle madri surrogate. Questo è quanto si legge nel rapporto approvato oggi dalla Commissione Salute dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Nel documento si chiede comunque di valutare l'opportunità di fissare delle linee guida europee per garantire i diritti dei bambini negli accordi sulla maternità surrogata. E siamo così alla politica italiana col dibattito sulla legge elettorale. 4 le mozioni in discussione che di fatto hanno riportato in Parlamento il tema della legge elettorale. Bocciate quelle delle opposizioni. Sinistra Italiana chiedeva che dall'Italicum venissero tolti i passaggi a rischio di incostituzionalità. Il Movimento 5 Stelle proponeva di cancellare l'Italicum per tornare ad un sistema proporzionale corretto con le preferenze. Dal centrodestra la richiesta che di legge elettorale si parli dopo il referendum sulle riforme costituzionali. Via libera dalla Camera la mozione di maggioranza, firma PD e centristi, che apre a modifiche al testo, fatto questo che non è piaciuto alla minoranza Dem, che non ha partecipato al voto. La mozione della maggioranza dà l'idea che non si voglia far nulla, spiegato Bersani. Il governo prenda un'iniziativa, aggiunto l'ex segretario, come fece con l'Italicum. 21 senatori PD intanto si svincolano, depositando al Senato il testo di una nuova legge elettorale, un Mattarellum 2.0, che prevede 475 deputati eletti in altrettanti collegi uninominali. Vincenzo Miglietta, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso l'economia. Secondo l'OCSE l'economia mondiale dovrebbe crescere del 2,9% quest'anno, quindi meno rapidamente rispetto al 2015. Solo una leggera accelerazione è attesa nel 2017. Per quanto riguarda l'Italia, le stime dell'OCSE prevedono un prodotto interno lordo in crescita dello 0,8%. Intanto la Fed, la Federal Reserve, la banca centrale americana, lascia invariati i tassi di interesse. Il costo del denaro resta fermo fra lo 0,25% e lo 0,50%. E poi parliamo di immigrazione. Decine di persone sono morte annegate dopo che un barcone carico di migranti si è ribaltato davanti alle coste egiziane. Era partito dalla città di Kafr el-Sheikh, nel delta del Nilo, diretto in Italia, il barcone di disperati che nelle prime ore del mattino si è rovesciato al largo delle coste della città di Rosetta, nel nord dell'Egitto. Ancora incerti i numeri, secondo alcune fonti, tra cui Al Jazeera, a bordo c'erano 300 persone, mentre l'agenzia di stampa egiziana MENA parla di 600 passeggeri, tra loro cittadini egiziani, africani in genere e siriani. Una trentina i cadaveri recuperati, tra cui quelli di 18 uomini, 10 donne e un bambino, ma il bilancio potrebbe di molto aggravarsi, visto visto che finora ad essere tratte in salvo sono state soltanto 155 persone. Sarebbe stato identificato il proprietario dell'imbarcazione, un cittadino egiziano che l'aveva affittata per la traversata. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, quest'anno, solo tra gennaio e giugno, almeno 2.800 persone hanno perso la vita nel Mar Mediterraneo nel tentativo di raggiungere le coste europee. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso con la cronaca italiana, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha convalidato l'arresto di Matteo Cagnoni, 51 anni, noto dermatologo accusato di aver ucciso nella villa di famiglia Ravenna la moglie Giulia Ballestria, e ha emesso nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. L'uomo, oltre che dell'omicidio aggravato della moglie, deve rispondere anche di occultamento di cadavere e di violenza sessuale. E che fine fanno i figli dei femminicidi, delle donne che vengono uccise dai mariti, dai compagni? Ne parleremo più tardi. È stato presentato oggi un progetto interessante alla Camera. Intanto, ancora sulla cronaca, l'omicidio di Roma. Sono stati presentati oggi i risultati dell'autopsia effettuata sul corpo di Luca Varani, il giovane ucciso, vi ricordate, nel marzo scorso in un appartamento della Collatina a Roma. I medici hanno contato quasi 100 colpi di martello e coltello sul corpo del ragazzo. Sarebbero circa 30 le ferite riconducibili a una sorta di tortura. E poi il caso della bimba Fortuna, vicino Napoli. È stato rinviato a giudizio Raimondo Caputo, l'uomo accusato di aver ucciso la piccola Fortuna Loffredo di 6 anni lanciandola dall'ottavo piano di un palazzo di Caivano il 24 giugno 2014. Rinvio a giudizio anche per la convivente Marianna Fabozzi, accusata di non aver impedito le violenze sessuali e i danni di una delle figlie. Il processo comincerà il prossimo 8 novembre. L'Ente Cattolico per la Formazione, vi ricordate ieri c'era questa notizia di un istituto scolastico di Monza che non aveva voluto accogliere uno studente gay. Ebbene, l'Ente Cattolico per la Formazione Professionale di Monza ha deciso di riammettere in deroga il ragazzo che sarebbe stato escluso in quanto omosessuale, e quanto si apprende da una nota in cui l'ente, che sottolinea di non aver mai messo in atto alcuna forma di discriminazione, spiega che il ragazzo in questione non ha presentato la domanda di iscrizione entro i tempi stabiliti, ma pochissimi giorni prima dell'inizio delle lezioni. Continua purtroppo l'odissea di Francesco Nuti, l'attore e regista. È stato ricoverato d'urgenza al centro traumatologico ortopedico di Firenze dopo una caduta avvenuta nella sua abitazione. Le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi, ma non rischia la vita. Nuti, 60 anni, è disabile dal 2006 dopo un ematoma cranico dovuto a un incidente domestico. Notizie dalla Apple. Secondo il Financial Times, la Apple sarebbe in trattativa da mesi con la McLaren, il produttore di auto sportive inglese, nonché una delle squadre di Formula 1, per una possibile acquisizione. McLaren potrebbe essere valutata sui 2 miliardi di dollari, potrebbe accelerare il progetto per le auto senza guidatore a cui sta segretamente lavorando l'azienda americana. E poi il Fertility Day, nuova bufera, vi dicevo, sul Ministero per gli opuscoli definiti razzisti, questa volta per il presunto messaggio razzista nella copertina di uno degli 8 opuscoli per la campagna sulla fertilità. In quello dedicato agli stili di vita si vedono due aree divise con due immagini diverse per le buone abitudini da promuovere, campeggiano immagini di ragazzi bianchi e sorridenti. Nella seconda, sui cattivi compagni, compare invece l'immagine di alcuni ragazzi di colore e con capigliatura rasta. Il Ministero aveva replicato nel pomeriggio: il razzismo è negli occhi di chi guarda, noi pensiamo alla prevenzione. Però in serata, come vi dicevo poco fa, sono stati ritirati questi opuscoli ed è stata addirittura aperta un'indagine. E adesso il calcio con Harry, che scrive al 349-238-6666. Roberta, ma quanto sei salama, prima hai fatto venire l'infarto ai tifosi del Bologna che non conoscevano l'esito della partita, poi a quelli della Samp rettificando. Dario Ricci, dai tuoi risultati finora. Ecco, rimettiamo le cose a posto, per carità, Roberta, non facciamo danni. Allora, senti, aggiornamenti da questa quinta di Serie A, tutti in campo, ma il Bologna ha già vinto, 2-0 con reti di Verdi e Mattia Destro. Siamo intorno alla mezz'ora su tutti gli altri campi e già si sono viste parecchie cose interessanti. Juventus in vantaggio per 1-0 sul Cagliari, decide finora il gol di Rugani. Inter in vantaggio per ben 2-0 ad Empoli, doppietta di Mauro Icardi, è veramente periodo straordinario di forma per il capitano nerazzurro. Ancora ferma invece sullo 0-0 la capolista Napoli a Marassi contro il Genoa. Poi 0-0 tra Atalanta e Palermo, 1-1 tra Chievo e Sassuolo. La Roma in vantaggio sul sul Crotone, fra poco vi dico anche il marcatore, 1-1 tra Udinese e Fiorentina e 0-0 finora invece tra Pescara e Torino. Vi dico subito il gol di El Shaarawy per la Roma, Roma come quindi in vantaggio sul Crotone col gol di El Shaarawy, siamo intorno alla mezz'ora. Molto bene, grazie Dario Ricci, questi sono i risultati e poi naturalmente ci aggiorneremo più tardi. Adesso c'è la viabilità tra poco, aggiorniamo chi sta viaggiando, però stavo guardando anche i vostri messaggi, a parte quello sui risultati del calcio, sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666 per i vostri messaggi. Dice Max: grande Raggi, coerente, logica, ci vorranno anni per estirpare a Roma il malaffare dei gangli amministrativi, fino allora niente impegni e il prezzo del riscatto capitolino. Anche Carlo da Padova scrive: la Raggi ha fatto benissimo. Poi Adriano dice: era solo una candidatura, se si veniva scelti allora si dovevano fare, altrimenti non ha detto un no al futuro, dice Adriano. Poi molti altri messaggi su questo e vedo qualcosa anche sugli opuscoli del Ministero per il Fertility Day, ne parliamo dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tutto il quadro esauriente della giornata, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, come sempre qui Effetto Notte, tutto in un'ora, Roberta Giordano sempre con voi, quindi c'è stato il riepilogo, vi ho raccontato un po' la giornata nel suo complesso con le notizie più importanti, cominciamo adesso a approfondire alcuni argomenti in particolare. Intanto arrivano moltissimi messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp ed SMS. Anche sulla campagna del Fertility Day vi ho raccontato, insomma, un'altra bufera, sono stati ritirati questi opuscoli proprio domani, il Fertility Day. Rosanna dice: va sollevata la ministra, è incompetente al limite del ridicolo. Franco scrive: mi sembra francamente un'esagerazione. E poi Alessandro dice: il problema alla base di tutte queste polemiche contro gli slogan del Fertility Day è che non è politicamente corretto dire la verità, cioè che la genitorialità femminile è a tempo e che il femminismo ha invecchiato il nostro paese. Che il femminismo abbia invecchiato il nostro paese, non lo so, dice così Alessandro. Luciano: se parliamo di razzismo, il muro che stanno facendo pagato dagli inglesi lì a Calais, fatto dai cugini francesi, forse fa pensare di più. Vabbè, sono temi diversi naturalmente. Poi invece Luca sulle Olimpiadi, di cui parleremo tra pochissimo: c'è chi ha votato la Raggi, la maggioranza ha deciso no alle Olimpiadi, è chiaro, o devi ricamarci ancora due o tre serate come ti detta Confindustria, dice Luca. Ma veramente stiamo parlando delle notizie oggi in primo piano, due conferenze stampa ci sono state, niente po' di meno sulla candidatura. Non so Luca che cosa cerca con questa illazione. Lorenzo: io sono assolutamente contrario alle Olimpiadi, ma non dovevano fare il tanto sbandierato referendum già fatto all'insaputa di tutti e lo streaming con un contraddittorio a loro tanto caro, dice Lorenzo. Anche qualcun altro ricorda il referendum, ma prima vi ricordo quali sono le notizie e in complesso più importanti della giornata. Roma, scontro con il CONI della sindaca, non è un sogno ma un incubo, dice lei, della candidatura alle Olimpiadi 2024, un no definitivo, ma la GO dice un danno erariale. E poi la mozione sull'Italicum spacca il PD, la minoranza non vota, Bersani dice il governo agisca, il centrodestra prima facciamo il referendum, comunque passa la mozione della maggioranza. Il governo vara il piano industria 4.0, incentivi per 13 miliardi e Renzi che commenta: l'Italia è il paese delle opportunità. E poi foto razziste, ritirato un opuscolo del Fertility Day, nuova bufera, la ministra Lorenzin revoca il direttore della comunicazione. La polizia negli Stati Uniti uccide un altro nero, violenze a Charlotte, scontro a distanza tra Trump e Hillary sulle tensioni razziali. Italiani rapiti in Libia, l'azienda si difende, mai revocata la scorta ai due lavoratori. Naufraga un barcone al largo dell'Egitto, vedevo adesso purtroppo un aggiornamento, salgono a 42 i morti. È da irresponsabili dire sì a questa candidatura. Quindi è arrivato il no definitivo. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, dopo aver disertato il vertice con il comitato promotore e con il CONI, cosa che ha comprensibilmente anche molto contrariato il presidente del CONI, Malagò, quindi ha tenuto questa conferenza stampa, ci sono state conferenze stampa disgiunte, vi dicevo, e lei ha spiegato così. È dai responsabili, l'abbiamo detto con forza in aula Giulio Cesare a giugno del 2015, eravamo in quattro. Lo abbiamo ribadito in campagna elettorale e lo diciamo qui oggi mantenendo una posizione. Non abbiamo mai cambiato idea, anzi abbiamo rafforzato la nostra idea. sulla base degli ultimi dati. E poi ha sottolineato il rischio che qualcuno possa speculare e ulteriormente cementificare. Non vogliamo che lo sport sia utilizzato come pretesto per ulteriori colate di cemento sulla città. Questo non lo permetteremo. Vengono fatte tante promesse in occasione di ogni Olimpiade. Ci ricordiamo bene come sono andati i mondiali di nuoto, no? Alla fine siamo pieni di impianti abbandonati, inutilizzabili, che rimangono lì come scheletri e gusci vuoti. Non è questo che debbono essere le Olimpiadi. E per noi non saranno questo. No alle Olimpiadi del mattone. Assolutamente no. E aggiunge poi a proposito dei costi. Noi non ce la sentiamo, sinceramente. Ci si dimentica troppo spesso che i soldi che devono essere investiti sono quelli delle tasse di tutti gli italiani, di tutti i romani. Non solo, ma anche la città dovrebbe continuare a investire con proprie risorse su progetti che sono lontani dagli interessi dei cittadini. Vi ricordo che all'interno della gestione commissariale 1 miliardo di debiti è costituito dalle indennità da esproprio delle Olimpiadi del 1960. Tutti noi romani e tutti gli italiani stiamo ancora pagando quei debiti. E poi adesso sentiamo anche Giovanni Malagone, la sua di conferenza stampa, dice: meritavamo più attenzione e rispetto, visto che poi appunto non si è presentata la sindaca a questo vertice, o comunque era molto in ritardo, dopodiché loro se ne sono andati. Credo che, insomma, doverosamente abbiamo detto, magari se è il caso e se ci vuole parlare la sindaca, magari ci dedica un pochino più di attenzione, penso anche di rispetto nei confronti del mondo che rappresentiamo. E poi dice Malagò, Raggi dimentica che sono cambiate in realtà le regole, perché il Comitato Olimpico Mondiale aveva chiesto una riduzione comunque dei costi. Noi siamo candidati perché sono cambiate le regole del gioco. Onestamente mi è dispiaciuto, perché ho sentito a conferenza stampa della sindaca che non lo si è ricordato, ma è tutto qui, ma questo è il punto centrale della questione. Se non ci fosse stata Agenda 2020, l'avvento di Thomas Bach alla presidenza del CIO nel Roma, ma in qualsiasi altra città d'Italia, io penso né oggi né a breve né a medio termine poteva aspirare a candidarsi. Bene, adesso coinvolgo Sara Monaci del Sole 24 Ore. Cara Sara, buonasera. Buonasera. Allora, dice Raggi, dai responsabili dire sì, non vogliamo altri debiti per Roma e romani, stiamo ancora pagando i debiti delle Olimpiadi del 60, e poi dice il 70% dei romani hanno già detto di no. Qualcuno l'accusa, dice: c'è dietro tutto questo grillo, lei forse avrebbe fatto qualche apertura, aveva promesso in campagna elettorale di fare un referendum poi per ricompattare, per ricucire questo strappo, questo problema con Grillo dopo le cose che sono successe per la giunta romana. Lei, insomma, dice, ha dato impasto, dice per esempio il senatore Esposito del PD Romani, a questa cosa per riconciliarsi con Grillo. Sì, diciamo che i problemi della Raggi sono, diciamo, più ampi e riguardano ben altre questioni che non il panorama internazionale olimpico. In questo ha ragione, non riuscirà certamente con questa giunta ancora non nata a gestire non soltanto le Olimpiadi ma anche cose probabilmente più locali. Detto questo, che è un po' una frecciata cattiva, esiste un tema tutto interno al Movimento 5 Stelle, che è quello che giustamente tu ricordavi, ovvero il fatto che poi la decisione probabilmente conta anche della incapacità di realizzare, o di almeno per il momento, un vero e proprio progetto a Roma, e la necessità anche di ricompattare il movimento con i suoi leader storici. Per quanto riguarda però alla candidatura, atteniamoci al dossier. Io prima di tutto suggerisco di ricordare che qualsiasi grande evento, grande manifestazione ha sempre i suoi detrattori e i suoi sostenitori. È stato così per l'Expo a Milano. Certo. È così anche per le Olimpiadi, quindi questa non è una novità. Ovunque c'è un grande evento, c'è qualcuno che ricorderà che questo evento porta con sé debiti, problemi, corruzione, cemento. Questo è vero, no? È vero. Storico. Basta pensare anche ad altri grandi eventi che ci sono stati nella storia recente italiana, no? Certo, Sara. Esattamente così. E non dubito che sia così anche altrove il dibattito. Il punto è vedere se esiste o meno un'opportunità e se questa opportunità ha un senso per questo paese. Non c'è dubbio che Roma vive un problema ormai storico. In questo Raggi ha ragione a ricordare che esistono dei debiti, non so se sono quelli delle Olimpiadi degli anni 60, ma la cosa sta dicendo di no, lei dice di sì, però al di là di questo Roma, al di là delle Olimpiadi, ricordiamolo, stiamo parlando di una città con 12 miliardi di debiti, di cui 8,8 finanziari, il resto 3,2 sono di tipo non finanziario, cioè debiti commerciali, sono dei fornitori non pagati. E il precedente commissario, Silvia Scozzese, prima ancora di Tronca, rilevava che tra il 2020 e il 2035 ci sarà sicuramente un problema di flussi nel bilancio ordinario. Comunque fino al 2039 il saldo tra entrate e uscite sarà comunque negativo. E non è un problema irrilevante comunque. No, ed è anche vero che il contributo statale per questo debito è di 300 milioni, di cui 200 arrivano dalle tasse sugli imbarchi negli aeroporti di Roma e uno 0,4% di addizionale comunale IRPES, quindi può darsi che non tutti i romani siano anche contenti di pagare ancora tasse. Infatti però... li vedo un po' divisi anche in romani o italiani, sia sulla pagina Facebook di Effettonote che al numero per i messaggi. Sara, dimmi solo una cosa, visto che abbiamo ancora poco tempo, Malagò parla di un danno erariale e gireremo su chi dice di no, perché sono già stati spesi, finanziati e spesi tema. Dei soldi? Diciamo che esiste il tema di un possibile danno erariale, lo deciderà la Corte dei Conti ovviamente. Il problema è che il Consiglio Comunale si era già espresso positivamente. Ma parli quello di Marino? Parli sì, della Giunta Marino? Esattamente, quindi il tema è questo, è l'istituzione a prescindere dal suo colore politico che ha già dato un sì a livello internazionale e rimane quello, oppure si può far conto del fatto che in Italia ci sia un cambiamento di idea in modo andando proprio agli antipodi rispetto alla decisione precedente, se cambia la decisione oppure le decisioni prese e firmate dalla giunta precedente devono anche valere. Il punto è questo, che se anche non c'è un danno erariale c'è sicuramente un danno di credibilità. Questo significa anche che anche le candidature successive, quella di Milano per esempio, che parlava di un'ipotesi probabilmente ancora in modo molto autopromozionale di un'ipotesi di candidatura nel 2032-2036, andiamo parecchio in là. Comunque. Andiamo parecchio là per forza, perché poi le prossime saranno probabilmente fuori Italia, però sconta di questa immagine che viene lesa. Io però per chiudere vorrei semplicemente pochissimi secondi, Sara. Sì. L'ultima cosa, è vero che ci sono stati degli esempi negativi, ma voglio ricordare che nel mondo ci sono anche esempi molto positivi di Olimpiade. Barcellona è la città che oggi conosciamo grazie alle Olimpiadi che ci sono state negli anni 90, nel 92. Londra, dopo l'Olimpiade, è stata la città che ha superato Parigi come città più visitata. È possibile che siano un po' più capaci di noi, meno in crisi, meno con è anche vero buchi, voragini? È uno dei punti dibattuti, c'è chi sostiene che se continuiamo a dire che non siamo capaci poi non saremo mai capaci. La profezia autoavverante, sì. Sara, senti, c'è comunque il Los Angeles Times, visto che le altre città candidate sono Parigi, Budapest e Los Angeles, che si sfrega le mani, dice gioisce per il ritiro da capitale, una in meno. Vabbè, esatto. Si era ritirato anche a Amburgo. Grazie Sara Monaci del Sole 24 Ore. Ciao Sara. Buonasera. Ciao. Se voi fate quello che fate non è soltanto perché inseguite un profitto, ma anche perché seguite un ideale e una responsabilità, che è quella di pensare che ci siano delle occasioni, delle opportunità, degli elementi di ricchezza per il nostro futuro. In questo scenario la nostra lettura è che l'Italia non possa essere la patria dei sempre no, solo no, non ce la facciamo. Noi pensiamo che l'Italia debba essere la patria delle possibilità, di chi ci prova. Questo oggi ha detto a Milano il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, presentando al Museo della Scienza e della Tecnologia il Piano Nazionale Industria 4.0. Ce lo spiega la nostra Raffaella Calandra, che era presente, c'era anche il Ministro Calenda. Che rivoluzione industriale è questa? Quali sono i punti principali? 4.0, Raffaella? Beh, innanzitutto nelle ambizioni del Premier, come abbiamo fatto sentire dalle sue stesse parole, deve essere un cambiamento di mentalità, cioè un obiettivo che è quello di vedere l'Italia con occhi diversi, con occhi di sfide e di opportunità, di possibilità e non appunto, come abbiamo sentito, quella dei sempre no. Si tratta di una rivoluzione appunto industriale, come è stata definita, 4.0, che ambisce a incentivare finanziamenti e investimenti esteri e poi soprattutto un rilancio delle imprese attraverso una produzione più interconnessa, attraverso un piano di incentivi fiscali da 13 miliardi per l'anno prossimo e nuove agevolazioni che sono state salutate con grande entusiasmo dalla platea di imprenditori, a cominciare da un iperammortamento. Hanno voluto scegliere un luogo simbolico come il Museo della Scienza, cioè tra i luoghi che hanno fatto, tra oggetti che hanno fatto la storia del fare impresa, telaie, macchine costruite sui disegni di Leonardo, per appunto descrivere questa rivoluzione industriale che appunto per il Premier deve essere il momento in cui l'Italia gioca la carta del coraggio, così ha detto Renzi. Il ministro Calenda è poi entrato nel dettaglio, diciamo, di questo piano, alcuni numeri già li ho detto, i 13 miliardi di incentivi per l'anno prossimo e poi ancora i 10 miliardi di investimenti privati che si punta a mobilitare per l'anno successivo, tutto sulla base di incentivi fiscali orizzontali, ha spiegato, e sotto il controllo di una cabina di regia che ha definito spietata, quindi pronta ad una verifica puntuale composta inizialmente da governo e imprese, poi ne faranno parte anche le regioni. Quindi diciamo una sorta di piano a medio-lungo termine per cercare di rilanciare il mondo dell'imprenditoria, anche perché, come hanno ricordato gli imprenditori, questa viene un po' considerata come l'ultima chiamata, soprattutto per il manifatturiero. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta. E adesso, prima di lasciarci, questo messaggio: Raggi, no, le Olimpiadi del mattone a Roma, spero ci facciano sapere quali investimenti e opportunità saranno in grado di governare nei prossimi anni. Continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, numero per SMS e WhatsApp. Poi parleremo di che fine fanno i figli dei femminicidi, tra virgolette, cioè delle donne uccise dal proprio marito, dal proprio compagno, tra poco. Tecnologie e logistica di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Vi presenta... Sono Giovanni Minoli e lunedì 26 settembre torno con Mix 24 con Mario Sechi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche. Anche la nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi, come sempre. Tutte le notizie le avete sentite, moltissime finora, ne abbiamo approfondite alcune, in particolare le Olimpiadi e la no alla candidatura della sindaca Raggi. Adesso passiamo a un altro argomento, intanto continuo i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Floriano scrive: irresponsabile e ridicola non partecipare alla conferenza stampa. Salvatore: penso che abbia paura di gestire un grande evento, ha già tanti problemi. Doriano: sono PD, non renziano, la Raggi lo aveva detto in campagna elettorale, perciò è giusto così. E poi invece Alberto da Cremona: a Roma si è fermato il mangia mangia grazie alla coerenza dei 5 Stelle. Insomma, chi contrario, chi favorevole. Vi ricordo, prima del prossimo argomento, i titoli principali. Olimpiadi 2024, la Raggi dice no alla candidatura di Roma, non è un sogno ma un incubo. Il presidente del CONI Malagò commenta: è un danno erariale di cui la giunta dovrà rispondere. Fertility Day, nuova bufera sul ministero per gli opuscoli definiti razzisti. In serata sono stati ritirati ed è stata aperta un'indagine. Italicum passa la mozione del PD, ma 42 non la votano. Convergenza tra Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana. Politica industriale: Renzi a Milano presenta il piano del governo per il futuro dell'industria. Attenzione anche alla moda. Tassi di interesse: la Fed, la Banca Centrale Americana, li lascia invariati. Il costo del denaro resta fermo fra lo 0,25 e lo 0,50%. Immigrazione: naufraga un barcone al largo dell'Egitto, si teme una strage, almeno 42 i morti. Il femminicidio di Ravenna, convalidato l'arresto per Matteo Cagnoni, accusato di omicidio aggravato, occultamento di cadavere e violenza sessuale, ne parleremo tra poco. Gli acquisti di Apple: secondo il Financial Times, l'azienda di Cupertino sarebbe in trattative per comprarsi la McLaren. A proposito di femminicidi, a Ravenna, come avete sentito, il noto dermatologo, è apparso tante volte in TV, Matteo Cagnoni, ha ucciso due giorni fa con un'efferata violenza, come dicono gli inquirenti, e ha fracassato il cranio a colpi di bastonate alla moglie Giulia Ballestri, di 40 anni, che voleva separarsi. Dopo averla uccisa con questi colpi violenti, averla trascinata giù per le scale, ha continuato a prendere colpi alla testa, l'ha nascosta nello scantinato della loro villa. Il fratello di lei, non vedendola, non avendo notizie di lei, ha dato l'allarme. L'assassino aveva anche tentato la fuga con i suoi tre figli, tutti tra i 6 e gli 11 anni, poi è stato arrestato e adesso è accusato. È stato intanto oggi convalidato il carcere, accusato di omicidio aggravato della moglie, di occultamento di cadavere e anche di violenza sessuale. Ma tutti questi bambini, fra l'altro, oltre alle povere donne uccise, i figli di queste donne non solo sono stati privati della madre che è stata uccisa, in più a ucciderla è stato il padre, quindi orfani di madre e con un padre assassino. Oggi alla Camera sono stati presentati i risultati della ricerca Switch Off, orfani speciali dei femminicidi e le relative linee guida, un progetto realizzato in collaborazione tra l'associazione Dire, Donne in Rete contro la Violenza, e il Dipartimento di Psicologia della Seconda Università degli Studi di Milano. I risultati sono il frutto di 4 anni di ricerche, di progettazione e di elaborazioni. Ce ne parla la professoressa Anna Boldri, che saluto. Buonasera. Sì, buonasera. Università di Napoli, non Milano. Di Napoli, mi scusi, e ogni tanto tra tutte queste città che nomino... No, si figuri, era doverosa la correzione. Certo, criminologa, psicologa e docente alla Seconda Università degli Studi di Napoli. Che cosa è emerso quindi da questa ricerca, professoressa Boldri? Sì, questo è uno studio che appunto ho voluto accendere un faro a chi rimane. Noi sentiamo continuazione, purtroppo, queste donne uccise... E qualche anno fa, appunto, grazie a un progetto europeo, abbiamo iniziato a andare a cercarli, che fine fanno. L'obiettivo era proprio quello di sapere dopo l'omicidio cosa succede a loro, per capire anche se ci sono dei bisogni che sono non ascoltati. Quello che è emerso da questo studio, la stima sui 1600 orfani in un periodo di 15 anni, è appunto una stima in base al numero delle donne uccise e la media dei figli. Siamo riusciti poi singolarmente a contattare 123 orfani, che alcuni di loro magari già diventati maggiorenni, altri ancora minorenni, con appunto questo lutto subito anni, chi qualche anno prima, chi tanti anni prima. Le cose più eclatanti che è emerso da questo studio è a parte il fatto che, vabbè, come abbastanza prevedibile, il 59% dei casi sono stati poi affidati a parenti stretti, quindi zii materni e nonni materni. C'è comunque una percentuale di questi orfani che, o perché non hanno parenti stretti che possono prendersene cura, o anche per liti a volte che si generano purtroppo fra le famiglie dell'omicida e della vittima, vengono affidati a terzi o appunto messi in comunità. Quello che è anche un altro dato importante che è emerso, su cui poi noi prima della presentazione appunto abbiamo parlato anche a lungo con la Presidente della Camera Boldrini, proprio perché si prendesse poi anche atto di alcuni fatti un po' sconvolgenti, che sono l'assenza di un sostegno anche economico. Considerate che da queste indagini risulta che solo il 2% di questi orfani ha avuto, o direttamente o indirettamente attraverso i familiari, un sostegno economico, che significa, per esempio, se hai in affido un minore, non viene riconosciuto un assegno di affido. Alcune volte stiamo parlando di 2-3 bambini, per cui dall'oggi certo. al domani. Professoressa Boldri, uno si trova a mantenere oltre che a volerli accogliere. Senta, tra l'altro, la cosa terribile, assurda che è venuta fuori più volte è che in certi casi, addirittura quando questi uomini assassini escono poi dal carcere, prendono la pensione della moglie, se la moglie percepiva una pensione. È successo, è stato un caso eclatante anche di una ragazza che ormai ha superato la maggiore età, che aveva denunciato questa cosa. Veramente di un'assurdità impensabile. Sì, in parte la legge fu modificata grazie a questa situazione per cui questa ragazza si vide tolto una cosa recentissima fonte, però. Sì. E adesso appunto anche alla Camera ci sono varie proposte di legge, fra cui questa di non, adesso la legge è cambiata per cui diventa reversibile all'orfano la pensione di reversibilità, però fino all'ultimo grado di giudizio, che significa a volte sono anni e quindi va ancora modificata. Noi abbiamo fatto anche delle proposte, queste linee guida che poi saranno disponibili anche online già da adesso, rispetto a quello che è il bisogno di questi minori. Per esempio, manca un sostegno psicologico duraturo nel tempo. Si può immaginare che situazione terribile possano vivere, no? Proprio per come loro vivono in un momento solo, vivono l'essere diventati orfani, perché poi o l'altro genitore, il padre, omicida, si è suicidato oppure va in carcere, quindi fatto comunque perdono tutti e due, come subiscono come se fosse una guerra, perché certo. Considerate che nel 59% dei casi hanno assistito a questo omicidio, e poi di fatto terribile. nell'80% dei casi è risultato che già precedentemente all'evento mortale questi bambini avevano vissuto in famiglie dove c'era violenza. Quindi questi uomini distruggono non solo la vita delle loro compagne, delle donne, ma anche dei loro figli. Manca proprio un senso etico, morale, una cosa orripilante, però sempre più bisogna andare nell'ottica della prevenzione, però adesso questi orfani ci sono, bisogna che tutta la società se ne faccia carico, perché se lo Stato non è stato in grado di proteggere le loro mamme, almeno dopo. Esatto. Speriamo che la sua ricerca, la vostra ricerca, professoressa Boldri, serva proprio a questo, a muovere la politica anche in questo senso. La ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Buona serata. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Ancora vi ricordo le notizie in pochi secondi. Roberta Giordano sempre con voi. La Raggi dice di no alle Olimpiadi a Roma. Scontro con il CONI. La sindaca: non è un sogno ma un incubo. Il presidente del CONI Malagò risponde: un danno erariale. E poi la mozione sull'Italicum spacca il PD. La minoranza non vota. Bersani chiede che il governo agisca. Il centrodestra dice: prima il referendum e poi facciamo la nostra proposta sull'Italicum. Il governo vara il piano Industria 4.0. Incentivi per 13 miliardi. E Renzi che commenta: l'Italia è il paese delle opportunità. Foto razziste, ritirato un opuscolo del Fertility Day, nuova bufera, la ministra Lorenzin revoca il direttore della comunicazione. Europa 24 notte. Si chiama RiseWise, è partito il 1 settembre del progetto dell'Università di Genova che si occupa dell'inclusione lavorativa e sociale delle donne disabili. Un approccio olistico, interdisciplinare, per far sì che anche le donne disabili possano condurre una vita normale fatta di lavoro, istruzione e famiglia. È finanziato da Horizon 2020, il Fondo Europeo per la Ricerca e l'Innovazione. La responsabile del progetto è Cinzia Leone, docente all'Università di Genova, e sentiamola al microfono di Alessandra Schepisi. È un progetto che si svilupperà prettamente in ambito sociologico e riguarderà le donne e la disabilità. Io ho detto prettamente in ambito sociologico perché? Perché ci sarà un'interazione molto fitta tra le varie discipline, che non sono solo quelle inerenti alla sociologia, ma al progetto partecipano anche ingegneri informatici o tecnologi, insomma persone che possono aiutare il panorama della disabilità femminile, non solo con un approccio appunto sociale per quanto riguarda l'inclusione o le politiche, ma anche fornendo dei supporti anche che possano aiutare nella vita di ogni giorno, braccetti robotici oppure l'accessibilità di internet. Lei diceva l'approccio multidisciplinare per l'inclusione sociale è un po' la cifra di questo progetto, un po' l'obiettivo per il quale sono stati poi dati questi fondi europei. Sì, perché il progetto è un progetto un po' particolare nella famiglia degli Horizon 2020, che è questa manovra di finanziamento dell'Unione Europea. europea, perché è un progetto interdisciplinare, comprende all'interno diverse competenze, diverse persone, diverse organizzazioni che hanno diverse competenze. Ad esempio ci sono, appunto, come ho detto, psicologi, sociologi, oppure esperti di diritti umani, esperti di questioni di genere. Ognuno contribuirà con le proprie competenze. Gli psicologi, ad esempio, serviranno per capire anche come inserire meglio la persona disabile, oppure quali sono le problematiche che la donna disabile affronta ogni giorno. Ci sono altri paesi che partecipano, come tutti i progetti finanziati da Horizon 2020, c'è l'Austria, la Svezia. Sì, i paesi che partecipano al progetto sono 6, sono 5 appartenenti all'Unione Europea più la Turchia, e i 5 europei sono, appunto, l'Italia, che è rappresentata da 4 organizzazioni all'interno del progetto, e poi c'è, appunto, c'è la Spagna con 3 organizzazioni, il Portogallo con 2, la Svezia con una impresa, con un'azienda privata, e l'Austria con altre 2 organizzazioni. E poi ci sono, appunto, i partner turchi, anzi le partner turche, che sono una dell'Università Politecnica di Ankara, e poi c'è un'associazione di donne disabili che si occupa, appunto, dell'inserimento sociale delle donne disabili. La cosa interessante è che, essendo un progetto internazionale, si metteranno a confronto anche diversi approcci, ma anche diverse qualità di vita, quindi lei può benissimo immaginare come una donna disabile vive in Turchia o come possa vivere in Svezia, facendo paragoni del tutto opposti, ecco. Il progetto è partito il 1 settembre, fino a quando durerà? E dura 4 anni, quindi sicuramente fino all'inizio di settembre del 2020. Quanto avete ricevuto dalla Commissione Europea? I soldi non sono pochi, sono quasi 2 milioni, sono 1,8 milioni per la precisione. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E adesso subito gli aggiornamenti della Serie A con Dario Ricci. Caro Dario. Intorno al 50° su tutti i campi, Roberta, ancora 0-0 per il Napoli a Genoa, mentre le rivali dei partenopei, la Juventus avanti 3-0 sul Cagliari, e l'Inter 2-0 ad Empoli con la doppietta di Icardi, vincono e sembrano avere la partita in pugno. Gli altri risultati finora: 0-0 tra Atalanta e Palermo, 2-1 del Chievo sul Sassuolo, 0-0 ancora tra Pescara e Torino, Roma avanti sul Crotone per 3-0, in rete anche Dzeko, 2-2 della Fiorentina con l'Udinese a Udine, pochi istanti fa il pareggio dei Viola su calcio di rigore con Bernardeschi. Grazie Dario Ricci, molto sintetico, molto bene questi risultati. Invece vi do poi gli aggiornamenti delle altre notizie alle 22.